in primo piano. Oggi sui giornali l'argomento principale è la riunione che si è tenuta ieri dei grandi d'Europa a Berlino in vista del G20. L'obiettivo dei premier è stato quello di cominciare a riscrivere le regole della finanza internazionale per poter esercitare poi una pressione vincente appunto in occasione del G20, quando tutti i principali paesi del mondo affronteranno questo tema. I titoli dei giornali. Il Corriere della Sera apre: Berlusconi incalza le banche, quindi dà una lettura dall'Italia, mentre la Repubblica dice: Europa, linea dura anticrisi, vede la questione più da un punto di vista globale. E così la Stampa: UE, Unione Europea, stop alla turbofinanza, intesa tra i grandi d'Europa, ma adesso dobbiamo riscrivere le regole. E così il Messaggero: crisi, intesa sulle nuove regole per la finanza. Altri giornali invece, come Il Giornale, sceglie un'apertura completamente diversa e più, diciamo, localistica e centrata sul recupero degli sprechi pubblici. Il titolo è: attenti falsi invalidi, adesso vi becchiamo. Ma rimaniamo al fatto principale, non senza prima aver dato conto di un grave lutto che ha colpito il nostro lavoro. Lo mettiamo in evidenza non per una ragione corporativa, ma perché la persona che è mancata, Candido Cannavò, è stato un giornalista molto amato dai suoi lettori, oltre che dai suoi colleghi. Il pubblico viene naturalmente per primo. Quindi partiamo da Candido. La Gazzetta dello Sport, di cui è stato per quasi 20 anni direttore, intitola così: Candido ci ha lasciati, ciao Candido. Camera ardente in Gazzetta, domani funerali, da Napolitano ai lettori migliaia di messaggi. E qui voglio ricordare, citare, un brano dell'articolo di ricordo di Candido Cannavò a firma del direttore della Gazzetta Carlo Verdelli. Ci evoca un passaggio, uno degli ultimi della vita di Candido, che ce lo restituisce nella sua autenticità umana, prima ancora che professionale. Quella mattina, scrive Carlo Verdelli, come le altre, prosegue appunto come tante altre. Candido comincia a documentarsi per il pezzo che consegnerà, puntualissimo, alle 3:30 del pomeriggio. Per quel giorno, giovedì 19 febbraio, mi aveva offerto 3 opzioni. Van der Sar, il portiere brutto anatroccolo in Italia, diventato cigno in Inghilterra, l'eterno Pippo Inzaghi, uno che non smette di segnare neppure quando dorme, oppure, come diceva lui, una cosa un po' fuori via. I 200 anni dell'invenzione del codice Braille, quei 6 puntini che hanno cambiato la vita dei ciechi. Pensa che prodigio, cosa dici, lo facciamo? E qui c'era tutto Candido Cannavò, per come lo ricordiamo noi, che più di una volta avevamo avuto la fortuna di scambiare opinioni, racconti, di ascoltarlo soprattutto perché era un maestro, durante le pause per il pranzo nella mensa del Corriere della Sera. Candido aveva 78 anni, ma conservava per questo mestiere, la capacità di entusiasmarsi che hanno solo pochi beati. Un uomo con un'energia sentimentale rara, capace di lasciare tracce di sé indelebili in chi lo avvicinava. Sul Corriere compare un articolo di Alessandro, il figlio, che dice una cosa molto particolare, e cioè racconta, ne leggo un piccolo stralcio, dice: è stata un'uscita di scena alla sua maniera, da protagonista la Candido. Nella mensa del giornale, tra un'insalata, un pezzo di formaggio, l'ultimo spicchio di mela da sbucciare e la compagnia che cercava a pranzo, quando non era in giro per l'Italia a tenere conferenze o a ricevere premi. un misto di impiegati, giovani praticanti, segretari, redattori e capiredattori e talvolta anche qualche vice direttore, come è stato quel giorno che aveva al suo fianco Luciano Fontana. Veniva quasi sempre solo in mensa, ma quando si presentava in sala col vassoio era subito una gara ad averlo al proprio tavolo. Io, ecco qui il pudore, l'ho guardato da lontano, chiacchierava, certo con più gusto di quanto non provasse a mangiare. L'avrei salutato, ma senza aggiungermi al suo gruppo, per quel riserbo reciproco che ci portava a limitare, fin troppo, i nostri contatti all'interno del palazzo di Via Solferino. Improvvisamente l'attacco che ci ha portato via Candido. Veniamo al tema del giorno, le banche, la finanza. I grandi d'Europa, racconta la stampa, lanciano dal loro vertice a Berlino un'iniziativa della UE per imporre al G20 di Londra riforme strutturali, regole severissime contro gli hedge funds, norme rigorose sulla vigilanza di ogni istituto e prodotto finanziario, disposizioni vincolanti alle banche di costituire in tempi di prosperità riserve per la crisi. È una lotta senza quartiere all'evasione tributaria nei paradisi fiscali. La Merkel puntualizza sanzioni a chi non collabora. Berlusconi, adesso passiamo ai fatti, e sponsorizza i Tremonti Bond. Ma il Corriere della Sera annota: Berlusconi incalza le banche, nessuno ha chiesto i Tremonti Bond. Il Premier dice che sono convenienti perché così le banche potranno dare più credito alle imprese, ma evidentemente le banche ci vogliono pensare ancora un po'. In sede di ricostruzione dei fatti, Sergio Bocconi ci dice che sono pronti 10 miliardi e che Intesa e Unicredit si stanno preparando per un esame veloce per arrivare poi all'accettazione. Il più entusiasta, dalla cronaca, appare il direttore generale del Monte dei Paschi, Antonio Vigni, che dice di valutare molto positivamente questo strumento. Probabilmente perché il Monte dei Paschi, aggiungo io, è tra le banche italiane quella che assieme al Banco Popolare più forse avrà bisogno di questo strumento. Ci specifica anche Bocconi che le banche potranno chiedere fino al massimo del 2% dei propri, delle proprie attività ponderate per il rischio come aiuto da parte del governo, come con il famoso Tremonti Bond. Questo vuol dire che in teoria potrebbero arrivare ad oltre 20.000 miliardi, ma in realtà ne è pronta circa la metà. L'Italia deve fare i conti con la sua coperta, che è sempre corta a causa del debito pubblico. Ma l'iniziativa dell'Europa cozza contro una certa resistenza del mondo anglosassone. Già alla riunione di Berlino gli inglesi sono stati piuttosto restii. La stampa ci intervista un importante banchiere americano, Edward Tarallo di Wells Fargo, il quale dice: regole più rigide per gli hedge fund, e comincia a mettere le mani avanti. Dice: non sarà facile, perché dice: la Germania o un gruppo di paesi possono anche decidere le regole, resta da vedere se saranno rispettate nei paesi dove la maggioranza degli hedge funds sono basati. È vero che molti sono qui negli Stati Uniti, ma altrettanti, se non di più, sono nelle Virgin Islands, nelle isole Cayman, in Svizzera, nel Liechtenstein e altrove. Un cittadino tedesco potrà aggirare le regole operando in Svizzera o in Liechtenstein su hedge fund delle Cayman. Il nodo sono anche i paradisi fiscali. Ecco, in queste difficoltà che pone il banchiere americano si misura il rischio di impotenza che corrono i governi in tutto il mondo quando devono affrontare questi problemi. Quasi che non abbiano la forza di fare i conti con le proprie realtà, i propri gruppi di interessi interni, in quanto le Virgin Islands piuttosto che le Cayman non sono certo i signori locali che animano tutta questa turbofinanza, ma sono esattamente gli americani, gli inglesi, i tedeschi, gli italiani, quanti sono, che hanno trasportato là i loro soldi. Quindi è soprattutto un problema, mi pare, se posso dirlo, di volontà politica da parte dei nostri paesi principali. Come uscire da questa difficoltà che sembra non finire, è iniziata nell'estate 2007 ed è ancora in corso e non se ne vede un'uscita. Da New York il corrispondente del Corriere della Sera Massimo Gaggi ci dà un quadro abbastanza sconsolato della situazione. Dice: difficilmente basteranno le promesse di Obama di ritornare entro 3-4 anni a una politica di contenimento del deficit. La speranza è che il mercato si convinca, con un'economia che ha rallentato, ma meno che in altre parti del mondo, che la borsa sia ormai vicina al fondo. Il suo valore, dice Gaggi, è pressoché dimezzato rispetto ai massimi di un anno e mezzo fa. Per far avanzare una simile speranza è però necessario avviare a soluzione il problema delle banche. Ecco, e qui Gaggi mette in rilievo le difficoltà che sta incontrando il nuovo ministro del Tesoro, Timothy Geithner, e alla fine non esclude nemmeno la soluzione delle privatizzazioni, dice, ma vede delle grandi difficoltà perché, sottolinea, anche la seconda opzione, quella delle nazionalizzazioni, è un problema di uomini oltre che politico. Prima aveva raccontato come Geithner fatichi a mettere assieme una squadra di collaboratori capace di superare gli standard etici imposti dalla nuova amministrazione Obama. Le obiezioni ideologiche, dice Gaggi, potrebbero anche essere superate, visto che la proposta dell'economista Nouriel Roubini, meglio una nazionalizzazione momentanea, tanto queste banche zombie non hanno più nulla a che fare con il mercato, dice l'economista. Ebbene, dice, la proposta delle nazionalizzazioni è condivisa anche da alcuni campioni del fronte conservatore, come l'ex capo della Federal Reserve Alan Greenspan e il senatore Lindsey Graham, secondo il quale anche McCain, di cui è il braccio destro, la pensa allo stesso modo. Quindi sembrerebbe che questa sia una opzione perseguibile. Anche un premio Nobel come Michael Spence sul Messaggero in un'intervista non la considera più una bestemmia. Ma, conclude Gaggi, il modello svedese di cui tanto si parla, ricordiamo la Svezia all'inizio degli anni 90 nazionalizzò alcune banche e poi le rivendette perfino con un profitto da parte dello Stato, dopo averle risanate, dice, ma il modello svedese di cui tanto si parla è lontano dalla cultura americana, paese di grandi imprenditori, ma che, allergico alle nazionalizzazioni, non ha mai sperimentato figure alla Enrico Bondi. Dove trovare figure super partes capaci di prendere, ripulire e rimettere sul mercato le banche, si chiede Gaggi, e lascia a noi la risposta, a noi e più che a noi, alla evoluzione della storia. Enrico Bondi, per i lettori che gli ascoltatori che non lo sapessero, è stato il gestore della nuova Parmalat. Riprendiamo il filo del nostro discorso, passando per un momento ai supplementi economici che il lunedì vengono pubblicati dai principali quotidiani. Il Corriere Economia apre con un editoriale di Dario Di Vico che si intitola "Tanto Stato, tanta fiducia" col punto di domanda, a dire che l'intervento nazionalizzatore dello Stato nelle banche può suscitare, può restituire fiducia ai cittadini di altri paesi, la Francia, la Germania, perfino l'Inghilterra, ma ci sono dei dubbi per l'Italia. Scrive Di Vico, le privatizzazioni avranno sicuramente deluso le aspettative, ma che i nostri connazionali sognino una nuova irizzazione, cioè una riduzione dell'economia italiana all'IRI, che fu lo Stato imprenditore degli anni 30, una nuova irizzazione dell'economia è difficile da credere. I ripetuti successi elettorali di Silvio Berlusconi, che non ha mai smesso di alimentare la sua immagine di imprenditore antistatalista, sono un test significativo. Su una linea non tanto diversa si colloca Massimo Giannini su Affari e Finanza di Repubblica, valorizzando il salvataggio di una piccola banca italiana, la Banca Profilo, ad opera di Matteo Arpe, che è l'ex gerente della Banca di Roma e di Capitalia, che portò con notevole successo il valore delle azioni di quella banca da 1 a 8 euro, che poi si è messo in proprio fondando una società finanziaria che si chiama Sator. Ecco, questa società finanziaria è intervenuta nella banca Profilo ricapitalizzandola e salvandola. Il Financial Times sottolinea con entusiasmo questa operazione e il Massimo Giannini dice giustamente, Paul Betts, il notista del Financial Times, nella sua rubrica sulla Bibbia dei finanzieri anglosassoni, si chiede se questa operazione, che attinge ai capitali privati, non possa essere il vero modello alternativo ai salvataggi pubblici. Noi non abbiamo dubbi, la risposta migliore resta quella che a suo tempo fornì Ernesto Rossi. Ernesto Rossi era un grande polemista negli anni 50 di cultura radicale. Scriveva Ernesto Rossi nella citazione che ne fa Giannini: le partecipazioni totalitarie dello Stato mascherano con vesti privatistiche i feudi burocratici per consentire ai funzionari privilegiati di fare liberamente quel che meglio credono con i quattrini dei contribuenti. Era vero nel 1953, resta vero anche oggi. Temo che, se posso aggiungere un mio punto di vista rapidissimo, il caso Banca Profilo Sator sia un po' troppo piccolo per ricavarne una medicina valida per il mondo e anche per la stessa Italia, casomai l'Italia un domani avesse problemi. Qui stiamo parlando di meno di 100 milioni di euro, nel mondo si parla di svariate migliaia di miliardi di perdite in corso, quindi sono grandezze, a mio giudizio, non paragonabili. Semmai il problema sarà, cercheremo di vederlo nei prossimi giorni, come fare bene, laddove sia necessario, come fare bene le privatizzazioni. Veniamo adesso a alcuni usciamo dall'economia e entriamo nel diritto. Il Corriere della Sera e La Stampa dedicano i propri editoriali questioni di politica generale. Il Corriere, la legge sul fine vita, i confini della politica, di Angelo Panebianco, il quale critica sia i fautori della sacralità della vita, i neoguelfi, che sbagliano di grosso, a suo dire, a voler imporre per legge tutti i loro valori. La sacralità della vita è un concetto privo di senso, aggiunge lui, per chi non crede in Dio. Ma nello stesso tempo il professor Panebianco critica anche i fautori della tesi opposta, e cioè coloro i quali ritengono che la vita sia nella disponibilità degli uomini medesimi. E quindi ribadisce un suo tradizionale punto di vista, per cui è meglio che la legge stia lontana da questi argomenti. Il suo articolo conclude così: senza contare che la legge di sicuro è il luogo più inadatto, più inospitale per depositarvi visioni ultime della vita. Il problema verrà purtroppo affrontato a colpi di maggioranza e nessuno per favore se ne lamenti, è la democrazia bellezza, dice citando una vecchia battuta di Humphrey Bogart. Vorrà dire che faremo l'alternanza a seconda di chi vince e di chi perde le elezioni, anche sulle concezioni della vita e della morte, davvero un bel risultato. Carlo Federico Grosso sulla Stampa affronta invece alcune problematiche che si aprono con le novità elaborate dal governo in materia di giustizia e di sicurezza. Le sue osservazioni sono molte, ne ricordo una critica che è abbastanza interessante. Il disegno di legge in tema di intercettazioni prevede, sul versante dell'informazione, il divieto di rendere pubblico ogni contenuto degli atti agli atti di indagine preliminare, scrive Carlo Federico Grosso. Ciò significa che, in spregio al diritto dei cittadini ad essere informati, nessuno potrà più pubblicare alcunché sulle indagini in corso fino al momento in cui esse si saranno esaurite. Viene meno in questo modo ciò che è sempre stato considerato uno dei capisaldi della libertà di stampa. Ma il suo punto di vista, e qui è l'aspetto interessante, non è soltanto, diciamo così, corporativo, che potrebbe interessare noi giornalisti, ma vede nella in questa norma, nuova norma di legge, un pericolo anche di minor controllo dell'operato della magistratura. L'essere, cioè la stampa, strumento indispensabile di controllo pubblico sull'esercizio dell'attività giudiziaria fin dal momento in cui iniziano le istruttorie. In una società organizzata sull'equilibrio dei poteri, né la politica né la magistratura dovrebbero poter pensare di potersi sottrarre al controllo della libera stampa. La politica non è in primissimo piano, la politica italiana è di taglio, il protagonista è Franceschini, il nuovo leader del PD, che apre il suo primo duello con il Cavaliere sui temi pro e contro, in difesa o in attacco alla Costituzione della Repubblica. A questo punto chiudo la rassegna stampa di oggi.